come stai? Io non lo so, è difficile sapere che tu riderai se ti dirò che è facile pensare a te. Capire che ti scorderò.